Tranquilla, tranquilla. duolo a tranquillo a tranquillar solo lucidive ti potete il comear solo lucidive ti potete il comear solo lucidive ti potete il cor bear solo voi lucidi bene mi potete